sole suo fratello, la luna è figlia del fuoco, il cielo di chi è lo sposo, di chi è lo sposo. Se la vita è un cavallo ed è la morte al suo regno, rispondi chi è il suo mantello, chi il suo scudiero. Folli da carezzare sulle tue, sulle mie fantasie, follie da appiccicare intorno a noi, se lo vuoi. Sei un pesante fardello da trasportare nel mondo, e sulle spalle c'è un falco, di cosa parlo? Sei la tela di un ragno, è il giorno che sta tessendo. Sai dirmi cos'è il destino, quale destino? Folli da raccontare come vuoi, se tu vuoi lo vorrai. Folli da attraversare dentro noi. Se il mio cuore è metallo e il tuo